finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. 22:49 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale, gli studi della radio pienissimi. Pezzo della working class dei Pischelli, dei Kids, che vengono dal litorale e a cui avevamo promesso qualche mese fa che al momento della presentazione dell'uscita del loro disco si sarebbero fatti vivi da queste parti, promessa mantenuta. Dicevamo 25 o'clock ai controlli. Di questo mercoledì 11 novembre, dopo le prove tecniche di trasmissione, www.ondarossa.info, il sito della radio sul quale troverete tutte le informazioni relative alla radio stessa, nonché i podcast delle produzioni audio più salienti della radio, le trasmissioni. Della radio, dove dicevamo troverete i podcast e anche come sottoscrivere questa emittente che ci ha disperato bisogno dei soldi sempre. Viviamo di autogestione, viviamo di autofinanziamento. Non ci abbiamo né padroni né partiti politici alle spalle, né facciamo pubblicità, quindi è impellente che compagni e compagne, ascoltatori e ascoltatrici che condividono il progetto editoriale di Radio Onda Rossa si facciano avanti e contribuiscono anche in maniera economica a far sì che questa emittente continui a poter pagare le salate bollette che comunque continuano ad arrivare sempre. A proposito, appunto, sul sito, andando su Sostieni, troverete tutte le modalità. Io vi racconto quella che vi diciamo da tanti anni. Conto corrente postale della radio 61 80 40 01, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. E poi ancora per contatti con la redazione, per le vostre comunicazioni, ondarossa@ondarossa.info. Per gli insulti a noi c'è la mail della trasmissione 25 o'clock 25 scritta a numero @ondarossa.info, ma anche per sottoporci quelle che sono le vostre produzioni o le vostre scoperte nei corti. Quindi continuiamo alternando così delle puntate più tranquille a delle puntate più movimentate con ospiti in studio. E questa sera ci sarà un'altra voce che conoscete della radio, anche se raramente si affaccia qui a questi orari. Thank you. ciao allora a tutti e tutte. Una voce che sentite molto spesso la mattina, però ringrazio Fevo per l'invito, sempre molto... Sì, non è che lui va a dormire la sera, è che semplicemente non trasmette in radio. Purtroppo. E infine, un altro numerello importante che dovete far funzionare questa sera, e non soltanto per dirci che la radio non sta trasmettendo, dai, 06491750, bella banana. È il recapito storico di Radio Onda Rossa da sempre. Allora, 87.9, abbiamo aperto di là i microfoni perché avevamo promesso, dicevamo, gli atti vandalici da Ostia al gran completo, penso, no? Quasi, sì. C'è stato tutto. Ci siamo. Sempre sì, un pochetto più vicini ai microfoni. Vedi, siamo presenti. Non vi odi, esatto, ma non vi odi per siamo esempio. Qui no, anche noi. Non è una noi. Finzione questa, ragazzi. Vabbè, grande energia, e venite da Ostia. Vogliamo un po' ricordare appunto così chi siete, che suonate, no, cioè uno per uno, prego, dai. Prego, prego, prego. Anche se siamo contrari alle personalizzazioni, bastava atti vandalici. Atti vandalici, street punk, pancoi, Michala alla chitarra, Alessio alla voce, Andrea alla batteria, e manca il nostro bassista Luca Maschio, che non è potuto venire purtroppo. Quasi che... al completo, insomma. Quasi al completo, sì, sì. Però 89%. Sì. Okay. Anche 90, dai, anche 90. Vabbè, era bello il numero dispari. Okay. Pure se è 90. Ci sono stati dei studi. Secondo degli studi particolari, insomma, importanti, commissionati, siete l'89% degli attuali. Esatto, esatto. Allora, street punkoi da Ostia, come uscite fuori? Cioè, io adesso ho messo appunto una band che veniva da Danimarca di una ventina d'anni fa, non mi ricordo nemmeno, Front Kick si chiamavano, una compilazione, eccetera. E quindi è una musica che viene da lontano, viene dal 70, post, subito dopo Champ 69, insomma poco dopo il 77, quindi una situazione di grande movimento, grande innovazione, grande fermento, direi, insomma, pure grandi proteste, emergere di dei kids, a un certo punto i fischelli dell'epoca che esplodono, e invece a Ostia poi da un'annetta a sta parte, se no? Pure noi da lontana epoca del 2014 suoniamo, anche se direi che noi non abbiamo avuto tutta questa fortuna, cioè loro avevano le proteste, noi abbiamo avuto la noia che ci ha spinto a cercare un po' questa risposta nella musica. Ma non è, cioè, detto, magari pure all'epoca c'era un po' la stanchezza e la noia, ormai in un certo modo le sono ingessato, pure, eccetera. Pure. Però insomma uscite fuori e vi legate a, appunto, a questo, per quale motivo? Dicevi la noia, insomma, vogliamo. Ma cercavamo un modo per esprimere un sentimento che non trova sbocco nella vita di tutti i sbocco giorni. Io conosco come altra cosa. Vabbè, pure sì. Cerchiamo di essere un po' più. No, no, quindi. No, cercate di essere come siete. Cercate assolutamente di essere come siete. Attaccati. E quindi da questo poi abbiamo, cioè, il nostro gruppo comunque nasce proprio dall'inizio, cioè eravamo piccoli e ci conoscevamo da sempre. E poi varie evoluzioni. Abbiamo iniziato come un gruppo punk, quasi pop punk, proprio semplice, quasi banale. Poi ci siamo un po' fatti influenzare dallo ska, lo ska punk. E poi adesso, di recente, abbiamo preso questa nuova strada. Due o tre anni. Per me, io dico recente perché si sta creando tutto adesso ancora. Però è questo più o meno quello che è stato. E perché questa nuova strada? Perché si è aggiunta, cioè perché lo ska punk forse era troppo ballereccio, troppo, oppure serviva poco a, esatto, a esprimere quello che c'era veramente dietro, magari quel sentimento un po' più pesante, un po' più qua noia di cui, esatto, di cui parlavo prima, esattamente. Ma pure il fatto, diciamo, che è cambiato, che si sente che una volta cantavamo in inglese, poi si è cercato un attimo un po' più, capito, cercando nelle radici, così qualcosa di più vicino a noi. Ma i pischelli che vi venivano a messaggio concreto più che altro. Sì, esatto. No, esatto, dico esatto. Pure per i pischelli che vi venivano, cioè, a sentire, sì, insomma. A cui vi ciao. Ci salutiamo in diretta. Sì. Vabbè, senti, dai, io perché poi appunto sempre, io dico sempre, è sempre difficile invitare chi suona, chi canta, insomma, a parlare, invece bene che si senta quello che uno vuole dire. E ditemi voi la traccia, da dove cominciamo? Inizia subito. Partiamo, che ne so, periferia, mi potrebbe piacere. Periferia, che sarebbe la numero? A numero 2. 2, partiamo da periferia. Anzi, quindi. No, con Branco, ci sono qui i nostri amici a darci supporto, partiamo con Branco. Ok, partiamo con Branco. I vecchi fan, i primi fan ci sono qui presenti oggi. Dai, Branco, Antivandalici da Ostia. We'll be right back. Allora, rieccoci qua. Periferia, ci siamo ascoltati, segnaliamolo perché avevamo detto che mettevamo Branco. Vabbè, Branco ce l'ascoltiamo subito dopo. Però, ecco, Periferia fa venire in mente, giustamente voi venite da Ostia, più Periferia di Ostia, insomma. E poi si parla tanto di periferie ultimamente, ci stanno un sacco di film. Non so se vi è capitato di vedere sia Non essere cattivo che Suburra. Sono... ecco, sono due film che secondo me trattano la periferia in modo assolutamente diverso. Soprattutto Non essere cattivo parla proprio delle zone. Esatto, tra Ostia, Fiumicino, esatto, quelle zone lì. E secondo me Non essere cattivo è molto più poetico di Suburra, che invece fa un'operazione secondo me abbastanza brutta, poi al di là dell'oggetto cinematografico che magari è impacchettato anche bene, però è un discorso secondo me brutto su Ostia o comunque sulle periferie in generale. Però ecco, prima tu mi parlavi di noia, a me mi ha colpito sta cosa, è vero, in periferia, poi a Ostia soprattutto, c'è molta noia. E come vi è venuto in mente dei fan gruppo? Poi noi ci eravamo sentiti più o meno poi tempo fa anche con i Farizona, con cui siete amici. Sì, sì. Ecco, come mi è venuto in mente di ricominciare a suonare e da spazio anche a una realtà molto periferica come Ostia, visto che tanto anche che non c'erano gruppi che facevano questo tipo di musica ad Ostia. Quindi. Ma in realtà il fatto è che quando uno poi sta dentro in certe realtà non è che pensa tanto a rivalutare la propria zona, diciamo, punta più a fare un qualcosa. Poi ovviamente appena esci un attimo dal contesto riesci a capirlo meglio, no? Ma finché ci stai dentro non è che dici. Cioè nasce tutto più che altro come una cosa che ti fa star bene a te all'inizio. Esatto. Poi dopo ti rendi conto che stai facendo qualcosa che magari riesce pure un po' a cambiare la realtà in cui vivi, no? Perché alla fine è iniziato come una cosa che facevamo tra di noi per passare un pomeriggio. Poi abbiamo iniziato a conoscere altri ragazzi che facevano la stessa cosa nella nostra zona. Quindi è diventato come all'inizio un metodo per passare il tempo, poi anche un metodo d'aggregazione per iniziare a creare qualche attività insieme, qualche evento pure che potesse, oltre che aiutare noi a far passare il tempo a noi, anche invitare qualcun altro a fare qualcosa di diverso dalla propria monotonia, capito? Vabbè, soprattutto, cioè, insomma, la musica è sempre stata un motivo d'aggregazione, no? Pure come, cioè, abbiamo scritto pure sul CD, cioè per noi è una maniera sia di riscatto sia di aggregazione, appunto, quindi sia divertimento ma pure un certo bisogno che te senti dentro, insomma. Certo, poi a maggior ragione in delle zone in cui purtroppo magari ci sono pochissimi se non proprio zero spazi di socialità, quindi dove è anche più difficile. Questa canzone, per dire, questa è una frase, cioè io ci tengo a puntualizzarla perché secondo me è il centro di tutto, che dice all'inizio dalla seconda strofa, fa: quante serate perse a cercare soluzioni e con niente in mano a parte naperoni, che sono comunque cospicue anche adesso le peroni, eh? Esatto, vabbè, quello sempre però secondo me è una frase che può racchiudere molto, può trovare un senso comune in molti ragazzi, insomma. Più che altro se accompagnate da qualcos'altro sono ancora meglio, capito? Quindi vabbè, ricordiamo un po', ultimamente venite da almeno due se non più serate in cui avete suonato, con chi avete suonato, come vi siete trovati, visto che insomma siete una band delle prime armi. No, ringraziamo un sacco i Torpedos che ci hanno permesso di fare un concerto per presentare questo CD e ci hanno presentato sto seratone in cui non potevamo perderselo, insomma, con i Razza a Parte, i Root Pride, i No Prove, Barbera Champagne. E ringraziamo il Teschio, il Marinaio, che ci hanno trovato pure sta serata, per dire, abbiamo suonato il secondo concerto dopo il CD con i Negative Approach, insomma, inaspettato proprio. E niente, no, siamo contenti di sto esordio alla fine. Da paura. Vabbè, allora ci ascoltiamo Branco, che in realtà ce la dovevamo ascoltare prima. Avevamo promesso, ci ascoltiamo Branco. Eh sì, così ringraziamo pure tutti gli amici che stanno qua intorno a fascia compagnia. Numero 2, giusto? Questa è dedicata a tutti, no? Branco è numero 13, no, l'ultima 3. Del CD. Hai ragione, scusa, ma è vero. Dai, noi siamo. Eccola. Vai. We'll be right back. branco di partiti, ci vedi arrivare, con loro voglio stare, tra amici e compagni. Torniamo allora, un saluto. Sola di turno ci deve stare sempre, mannaggia. E vabbè, saluto. Sei cambiato, maschio, sei cambiato. Ritorna quel che eri. Lo so, le donne ogni tanto cambiano gli uomini, i compagni. No, un saluto colorito, comunque, insomma, non banale. A quello che attualmente è il vostro bassista. Esatto, esatto. Ok. Bene, a me quello che insomma mi viene in mente ascoltando il vostro CD, un po' di tracce già le conosco, è che è un CD fatto col cuore, vecchio stile, soprattutto i testi, proprio vecchio stile i classico, quello che abbiamo ascoltato almeno per quanto mi riguarda per CD, perché non ero ancora nato, ma negli anni 80, anni 90. Qua roba lì, insomma, bella che spaccava. Ci si è provato, ci si è provato. A partire poi dai titoli, perché Repressione, Odio Tutti, insomma, partono dal core, arrivano diretti un po' come in destro in bocca. E... no, questo è importante. No, perché... no, è quello l'obiettivo, insomma, non è che dimostrare qua Travisaffa. Sì, sì, no, infatti va benissimo così. Pirati, quindi ecco, Branco, abbiamo appena ascoltato, tutte tracce belle, belle forti che arrivano dritte anche al core. Giusto così, qua io visto te la faccio principalmente a te perché so che scrivi i testi e la maggior parte dei testi immagino l'hai scritti tu. Quali sono poi i tuoi riferimenti musicali a cui ti sei ispirato, tra virgolette, ovviamente? Se ce l'hai, se non ce l'hai. No, certo. Non è che andiamo a stare qua a nascondere. Comunque, ovviamente, vabbè, se parte dallo più classico inglese, insomma. Tutti conosciamo Oxpar, Cockney Rejects, Shem 69, chi ce n'ha più ne metta, arrivati a quelli italiani, Colonna Infame, Vinta Facile, Classe Criminale, Automatica Aggregazione, gli ultimi, da quelli più lontani a quelli più vicini, insomma. Poi ovviamente noi cerchiamo di fare un punk abbastanza verace, nel senso, se dobbiamo dire una parola in romano non è che stiamo là a nascondersi, anche perché a traccia numero 7 la esatto, società dei magnaccioni, esatto, quella descrive un po' sta cosa. Senti, no, c'è un aspetto che un pochino però in tutto questo, diciamo, mi sarebbe piaciuto mandare una traccia adesso, magari la facciamo dopo, vogliamo provare. Dunque, di qua che cosa ci abbiamo? Qua ci abbiamo Atti Vandalici, no? Quindi proviamo a mandarla di qua, tutto in diretta, eh? E volevo provare a mandare una traccia, vediamo se la trovavo. Aiutami tu. De chi? Chi volevi mandare? Aspetta che ce l'abbiamo. Io ogni tanto ci provo, rassegna stampa tra un giornale e l'altro, metto razza a parte. Sì. No, poi mandiamo una cosa. Più o meno, no, questo qui il secondo disco dovrebbe essere. Non, però una delle prime interviste proprio qui che abbiamo fatto qui è inaugurata praticamente 25 o'clock. No, magari stiamo parlando di tanti anni fa. E questa qui era sempre un gruppo che veniva spesso da queste parti, non ultimo, anche un 3-4 anni fa, anche se in una veste differente, ce l'ascoltiamo, ma non tanto per, vabbè, sì, pure per quello che dicono, però per farvi la domanda dopo, dai. Però è questa, eccola qua. Allora, rieccoci in onda. Aspettate un attimo. Allora, dicevamo, no, quello che notavo era questo qui, un disco dei inizio 2000, insomma, una quindicina d'anni fa, dai, 13-14 anni fa. Registrato appunto alla maniera dell'epoca, nel senso, poi con mezzi molto si facevano i CD, non si facevano ancora gli MP3, non c'avevi troppa digitalizzazione, insomma, molto rudimentale, insomma. Molto rudimentale, e si sente, insomma, si sente la grezza. Allora, nel caso vostro invece c'è un artificio un po' più importante, cioè il suono è grezzo perché deve rimanere tale, però mi raccontavate prima che invece tutta la vicenda poi della registrazione è stata invece molto accurata, cioè ci avete tenuto molto a riprodurre, sì, un certo tipo di suono. Vogliamo ringraziare il nostro amico, un caro amico che ci ha aiutato con questa registrazione, il Luca De Palocco, non diciamo il cognome perché non è il caso, e ci abbasta e ha fatto il CD nostro. Oia, grande Luca, disponibilissimo. Sì, ci vediamo molto, abbiamo messo 8-9 mesi a fare questo CD perché un vero e proprio parto, 8 mesi per fare questo CD. Ci abbiamo appunto tenuto a avere maggior cura dei suoni e tutto il resto. Sì, bisogna dirlo, non per colpa sua, lui ce l'ha messa tutta. No, eravamo noi che siamo stati noi il problema, che una volta che appunto finito di registrare la batteria abbiamo deciso di registrarla nuovamente perché non ci piacevano alcune cose. Mazzola, avevamo quasi perso le speranze. È proprio a fondo, state zitto. No, vabbè, nel senso, cioè, è stato fatto proprio un'amicizia tranquillamente, poi col suo aiuto, che insomma ci si è chiuso davvero tanto, appunto, messamati, siamo riusciti a raggiungere questo suono gradevole, ma comunque con mezzi abbastanza facili, ecco, quello. È solo stare una questione di tempo, insomma, no? Tantissimo tanto tempo, di attrezzature tempo particolari. No, insomma, infatti, no, per niente. Ok, quindi autoproduzione, sì, volevamo dirlo pure. Autoproduzione totale proprio, cioè dalle grafiche all'impacchettamento del CD, alla registrazione, alla spedizione, alla vendita, alla grafica. Abbiamo anche suonato da soli, cioè. soprattutto quello. Però un concerto suonato in playback, ovviamente. Sì, sì, naturalmente. Che abbiamo fatto a fare il CD. Scusate. Senti, e ZK quanto c'entra con questa autoproduzione? ZK è tutto, è la base, perché ci ha accolto fin da quando abbiamo iniziato fino adesso. Salutiamo il Secchetto, il grande Ernestone, che ci accoglie sempre a braccia aperte. Io direi che ZK è stato il posto dove abbiamo iniziato a capire che quello che stiamo facendo poteva iniziare a diventare qualcosa di un po' più concreto. Perché magari i primi concerti, i primi posti, le prime serate che abbiamo visto, è stato là, abbiamo visto l'ambiente com'era, quindi è nato tutto da lì, cioè, secondo prima me. Prima scherzavate un po'. Prima sì, era un gioco. Esatto. Poi piano piano. Poi vedendo invece la situazione è diventata una cosa più importante. Ok. E allora, se vogliamo sentire una cosa, per esempio, curata nel suono, che ci avete faticato tanto fra le tracce, quale dobbiamo andare a selezionare? Oddio, mettiamo Tempesta, che è una richiesta. Dai, accontentiamo la nostra cara amica Mavi. Sono tutte buone. Che tempo vuole sentire Tempesta? Sì, speriamo di sì. Tempesta. Poi, decidete qual è il nome più bello. Mettete. Tempesta, però, me la devo andare a cercare. Tempesta che era numero 6. Dai, è il numero del diavolo. Dai, Ma dopo la seguita dei magnacciuoli. We'll be right back. E allora rieccoci qui, vabbè, Light the Bob è un'istituzione, almeno per chi viene dal litorale romano e non solo, è un'istituzione. ZK, Light the Bob, non si toccano. Ma sento qualcosa che fischia. No, vabbè, continuiamo allora con voi, con gli atti vandalici, visto. Repressione. So, io è quella che vorrei mettere dopo, perché è il pezzo secondo me più fomentoso, più non lo so. Vabbè, la canzone più bella di lui fino ai giorni nostri. Dai, diciamo così, modestissimo. Però ecco, repressione, che poi è una cosa che in periferia si accusa molto di più, perché gli sbirri te fermano. Resta. Caga nel cazzo. Ta resta, no, vabbè, certo. No, sì, ma poi io, cioè, cederei a. Comunque a dire pure, per dire, la situazione che sta a vivere, che ne so, la curva sud da Roma, per dire, può essere un esempio calzante di repressione, cioè. Proprio. Certo. Beh, ricordiamo. Soprattutto uno dei più evidenti degli ultimi anni, cioè. Beh, hai citato la curva, mi viene in mente Gabrielli, ma mi viene in mente anche Gabriele Sandri, insomma, ucciso, è proprio oggi che è l'anniversario, ucciso da uno sbirro, sì, spacca rotella, insomma, sì, la repressione ha diversi modi per articolarsi, c'è lo stadio, c'è la piazza, c'è la semplice strada, noi da questa radio, ovviamente, Radio Onda Rossa, tante volte ci siamo trovati a commentare, proprio anche in diretta. Mi viene in mente l'ultimo corteo contro le merde leghiste De Salvini a Bologna. Andate a vedere i video, insomma, caricano come bestie. Quindi, repressione. Se volete aggiungere qualcosa, vi è capitato di essere mai fermato dagli sbirri? Vanno rotto il cazzo? Ovviamente sì, penso come ogni ragazzo, ogni coetaneo e gente pure più grande, cioè. A fine, penso che sia al limite una vita in cui te devono venire a rompere i coglioni, cioè. Vuoi aggiungere qualcosa? Siamo a posto così. Va bene, se la vogliamo mettere. Ascoltiamoci repressione allora. Vai, Fefo. Numero. Non si esprime sto ragazzo. Non aggiunge altro, state zitto. Sto cercando. 9. Repressione. ancora dall'estrema periferia, questi erano i Fuori Zona, che salutiamo. Avete qualcosa anche da dire? Bella regà, grazie di tutto. Mo ricordateci un po' di cose, tipo mi sa che Andrea deve ridar piatta a Ciccio. Che volevo salutare a Francesco, che volevo salutare. Sì, perché mi sono attaccato e direi sto piatto, cioè te giuro che non te l'ho rubato, te lo riderò prima o poi. Promesse, cioè, che più prima dove che finiranno. Poi. Ma che poi magari uno ci si vede e manco glielo dice, capito? Poi ci si incazza, no? Infatti, cioè, risolviamo questa questione perché può distruggere un'amicizia. Non te incazzare che te lo ridò. Fai prima scavalcagli a casa, te lo dico. Perché abbiamo messo in radio, però pubblicamente. Quindi, comunque, è una forma di outing. È una roba che resta agli atti. Perché poi siamo a carte scoperte. La registrazione qua. Sta tutto là, lo vedrete tutto. Magari non si ricordava Ciccio che piatto c'aveva lui. Capito? Potevi farla franca, Andrea. Mi sono sbagliato, volevo stare mezz'itta. Ma io non cresce. No, comunque grandi regà, bella buona serata. Grandi, ci si vede il 28. Belle cose. Ve vogliamo bene. Ci si vede il 28 perché? Al Ciao Core. Ah, vero, la paura. Dove sta il Ciao Core? Zona nostra più o meno. Verso Palocco, vicino Palocco. Drive-in. Quindi Fuori Zona e atti vandalici. Sì, così è un pabbetto proprio. La paura vicino, però. Una cosa casareccia, diciamo, dai. Sì. Guarda, se non ve l'avevamo detto, mo lo sapete che dovete suonare con noi il 28. Invitati in diretta, proprio invitati sul momento. Vedremo se accetteranno. Comunque al Ciao Core il 28. Novembre. No, ovvio, 28 novembre, sai che, perché c'è certa gente non si ricorda manco l'anno in cui stiamo a vivere, no? 28 novembre, atti vandalici e forse Fuori Zona si accetteranno, vediamo. Al Ciao Core de Palocco. Sto invito, insomma, proprio. Tutti lì. Vabbè, grandi Fuori Zona che erano stati qua a presentare invece il loro CD, che tra l'altro dovreste trovare anche nel nostro banchetto della radio, qualche copia forse c'è rimasta, magari ci abbiamo anche... Forse troviamo sì pure quello degli Atti Vandalici. Sì, troveremo anche quello degli Atti Vandalici, a sto punto ricordiamolo che il banchetto sarà venerdì al Cinema Palazzo, sì, ricordiamo sì, a sto punto anche l'iniziativa. Partiamo la marchetta a loro per per spingere se la sera esatto. Di Onda Rossa, perché appunto poi... perché Radio Onda Rossa ama comunque portare chi fa autoproduzione, chi si autogestisce, chi fa le cose do it yourself, chi fa le cose per sé, chi le fa dal basso, come vi pare, perché appunto Radio Onda Rossa viene ed è questo, insomma, è un'emittente fatta di gente che non lo fa per professione, non lo fa per soldi, lo fa solamente perché appunto ci crede, perché c'ha grande passione nel farlo, e quindi mo adesso mi stacco la locandina così me la dovete ce la presentate voi, ce la presentiamo noi, cioè. Che sto bravo a leggere. bravo vai. Lo scientifico insegna un sacco di cose, i nomi vi aiuto pure io, dai la locandina è pure bella, la locandina del zero carcare, sì, è molto bella. Allora ci tutta. Vedi un po' come ti viene. No, una mano sul core 04 incontra zero calcare, fumetti, racconti, musica e video. Ole! Campagna di finanziamento Radio Onda Rossa 87.9. specifichiamo bene, 87.9, se sbagliamo. Voce libera dal 1977. 7. Venerdì 13 novembre 2015, ore 21, nuovo Cinema Palazzo, Piazza dei Sanniti 9A. Che vabbè, sta qua sotto a radio praticamente. Ingresso sottoscrizione. Sottoscrizione, diciamo, molto proficua e gonfia. Sostanziosa, molto sostanziosa. Se ci avete le tasche vuote non ve presentate. Noi è poco stiamo a di una mano sul core, l'altra sul portafoglio. Atti di proprietà, chiavi di casa, per favore. Riffa bici. Sì, la Riffa è per un compagno che non c'è sta più, che purtroppo è venuto a mancare, quindi la sua bici andrà appunto a questa Riffa a sostenere la radio. Lui era un grande ascoltatore della radio, quindi esatto, lo ricordiamo. Sì, andiamo ad elencare velocemente gli attori, io però non ce vedo, loro sono giovani. Ti leggo io. No, se lo famo insieme, dai. Tamara Bartolini e Michele Baronio. Beppe Casales. Eleonora Danco. Erika Muraca. Riccardo Coretti. No, aspetta, hai saltato una riga. Donatella May. No, Riccardo Coretti c'era. Poi c'è ragione. Scusa, L'Aspro. Vedo, però ancora ci sento. L'Aspro, Donatella May. Enrico Melozzi. Daniele Emilio. Erika Muraca. Paolo Pesce Nanna. Monica Perozzi. Trisom. Ferdinando Vaselli. Margherita Vicario. Zappattori. e che leggeranno le tavole di Zero Carcane, invece saranno Michele Bodrugno, Chiara Giancardi, Alessia Mendola e a finire Giuseppe Ragone. E no, poi c'è anche un DJ, DJ David. Una cosa che dobbiamo precisare, non mi veniva, una cosa che dobbiamo precisare è che appunto ci sarà Zero Calcare che incontrerà tutti questi attori, lui sarà agli segni, farà un tot di tavole, eppure queste tavole qui andranno così in sottoscrizione a chi se le vuole accaparrare. Tavole autografate da Michele, insomma, da paura. Anche le locandine, insomma, cerchiamo di alzare un po' dei soldi, dai, perché tra l'altro in questo periodo stiamo veramente in bolletta e quindi una mano sul cuore. Dai, dai, veramente stiamo messi abbastanza male da un punto di vista economico, quindi ecco, noi ci teniamo a presentare i gruppi, che poi magari ci date qualche CD e noi comunque li mettiamo nel banchetto, ci arriva qualche spiccio e comunque facciamo una mano, è una mano comune, cioè sì. Esatto, uno esatto. Si aiuta, l'autoproduzione è anche proprio scambio, poi certo. Alla fine, cioè la possibilità di far circolare le cose, la radio si presta assolutamente a sta cosa perché è nella sua natura e speriamo insomma che tutte quante ascoltatori e ascoltatrici avete capito sta cosa. Dunque, andiamo avanti, che volevamo mettere adesso? Magari sempre un altro gruppo di quelli storici che avevamo citato prima, mi viene in mente Automatica Aggregazione, quindi da Bracciano seleziono una traccia, nel frattempo vi diciamo che... Qualche traccia? Sì, se, ditemi che cosa mettere. Vorremmo mettere Radici. Radici da Automatica Aggregazione, una band che mo, insomma, si è scissa, ci stanno gli ultimi, ci stanno Barbera Champagne, grandi Automatica Aggregazione, ma grandi pure quelli che sono venuti dopo. Dai. Eccola. E allora sempre 87.900 nella modulazione di frequenza Roma e dintorni, verrebbe da spara un oi alla fine di queste canzoni, perché te lo chiamano proprio, esatto, automatica aggregazione. Tra l'altro voi avete suonato con i Barberi a Champagne, che ne sono in qualche modo un po' una prosecuzione ideale, in un certo senso un testamento. Salutiamo i Barbera, sempre simpaticissimi. A ZK qualche mese fa, e tra l'altro questo ci dà l'opportunità di cambiare un po' tema, visto che quello era un concerto organizzato per la Spartak Lidense, no? Sì. E tra l'altro in questo vostro disco c'è una traccia, la numero 4, no, al calcio moderno, che tra l'altro stava già in rotazione su Radio Onda Rossa, tu mi hai detto. Sì, era la prima che abbiamo registrato, quindi abbiamo fatto un tempo, insomma, a portarla qua, la prima trasmissione che abbiamo fatto insieme. E mi hai detto anche di averla sentita il nostro compagno automatico che la manda, giustamente. Sì. E mi sono fomentato come una merda, è inutile dirlo. È proprio inutile dirlo. Però mi andava comunque dei tipi. Certo, no, vabbè, ma adesso inseriremo anche altre tracce vostre. Insomma, a noi fa sempre piacere implementare quello che noi chiamiamo il nostro compagno o compagna automatico o automatica, che appunto manda le canzoni quando qui in console non c'è nessuno, principalmente la sera, ma anche durante la giornata. Questo, come dicevo, ci rindirizza un po' su un tema, ovvero quello del calcio, che è presente anche come simbologia all'interno del vostro disco, cioè sì, qui sì. È il vostro simbolo, diciamo, che rimanda appunto al calcio. So che siete anche tifosi della Spartak Lidense, la sostenete. Diteci un po', due parole sulla Spartak Lidense. Salutiamo sempre Luca Masi, che appunto sta con voi. Sta a farsi i comodi cazzi sua, però. Però sta anche nella Spartak Lidense. Ovviamente, è uno dei dirigenti. E niente, stiamo a cercare di far crescere questo progetto. Ora, la prima stagione in terza categoria. E niente, va. L'importante è che si divertiamo, insomma. Tra fasci e coatti è comunque dura in terza categoria. Fasci e coatti in ogni quartiere. La canzone di Colonna Infame. Sì, Spartak che non ha cominciato benissimo, però insomma, sti cazzi anche del gioco, anzi, è bello che noi andiamo lì con i Peroni. Oltre il risultato. E poi comunque, adesso parliamo di calcio, tra l'altro è il primo anno, penso, da Spartak. È il secondo anno, però è il primo in un campionato riconosciuto. Diciamo. L'altro quindi era amatoriale. Dire, uno, come si dice, deve fare le ossa, insomma, deve comunque imparare a giocare. No, insomma, pure il pallone è una cosa seria poi alla fine, certo. Insomma, è una cosa che ci diverte, che ci diverti, almeno io mi divertivo, ora non mi diverto più perché non ci gioco più, però insomma era una di quelle cose. Poi ci sono stati pure prima dell'avvento delle squadre dei quartieri, del calcio popolare, c'è stata una cifra dei tornei che essenzialmente di calcetto che si facevano dentro il movimento con i vari squadrette dei centri sociali, insomma ci sono stati diversi anni delle situazioni così. Vabbè, comunque il calcio poi è sempre cosa una qui, cosa che ti accomuna e ti diverte. Certo, poi questa cosa qui invece nel quartiere tira, perché vedi che comunque il calcio è quello, è così in tutto il mondo, insomma. Sì. Comunque è un gioco. Come si dice, molto economico tutto sommato, no? Perché basta un pallone. E poi hai fatto un mondiale, di qua abbiamo l'altro conduttore che sta facendo dei magheggi, non sappiamo cosa, però noi abbiamo esaurito quasi le cose da dire, quindi dobbiamo andare avanti, quindi ci riascoltiamo noi al calcio moderno, che nonostante sia in rotazione nell'automatico, comunque magari molti non l'hanno ascoltata, quindi a sto punto ce l'ascoltiamo. Ma infatti può essere pure che magari voi avete la versione quella vecchia masterizzata. Sicuramente perché noi è quella che ci avevi dato tu, questa qua era? Infatti questa qua è no, al calcio moderno HD dobbiamo ne dare 2.1 HC. Ma quella HC, io all'HD. Questa la dedichiamo, tra l'altro la dedichiamo a Gabrielli, a Agab. Dai, su a sto pezzo di merda. Vabbè, va. Dai, la dedichiamo a Gabrielli allora. No, al calcio moderno, ce andiamo a sentire Atti Vandalici. Allora, no, al calcio moderno, che abbiamo detto dedichiamo a quel bell'infamone di Gabrielli che ci ha governato, seppur ad interim, per un pezzetto. Adesso abbiamo un altro commissario, vanno tanto di moda, un prefetto che viene da Milano, dall'Expo, e Gabrielli sta a fare un bel casino, come dicevi tu prima, nelle curve, ma in generale poi, tra l'altro, è un dirigente della PS, della Polizia di Stato, Gabrielli, ben affermato. Cioè, essenzialmente un pezzo di merda, cioè senza mezzi termini. Senza mezzi termini, è stato anche a Digos. Ma secondo, cioè, il fatto una è bella che, carrierina, una bella è carrierina. Infatti, cosa so. Che c'è, che esercita sto governo, cioè sto, diciamo, sta modalità repressiva pure secondo me per scopi politici. È poco. Certamente, onorevole, diciamo. Certamente. Poi capito, mo sanno c'è sta il giubileo, capito? Quindi magari, capito, fa sta buona qua poca fetta magari le persone che vive un po' di ore con passione, glielo del culo, no? Vuole mantenere tutto spento e tutto morto. E a proposito di questo, ci viene quasi naturale collegarla al prossimo pezzo che ci andremo ad ascoltare, parlare un po' di Roma, di sta città, di Ostia poi in particolare, perché ricordiamolo, magari non tutti se lo ricordano, ma Ostia è stata commissariata per mafia ufficialmente ancora, dal punto ancora, di vista politico, ancora. Esatto, ancora è così. C'è stato prima Sabella, quello che si vantava di arrivare a Ostia con la pistola, il magistrato, assessore alla legalità, poi sono arrivati tre dirigenti comunali, adesso pare ce ne sia solo uno, il nome tra l'altro manco me lo ricordo. Quindi insomma Ostia, pezzo di società e di quadrante della città molto molto delicato. E non so se voi volete aggiungere qualcosa, cioè a me viene in mente ovviamente Suburra, che ho visto ultimamente, forse perché l'ho visto ultimamente, purtroppo non ancora non so se mi ho visto, che quindi. Traccia, diciamo, un tra l'altro un profilo secondo me anche abbastanza falso di Ostia, perché c'è questo personaggio, poi magari lo vedrete, numero 8, perché c'è un tatuaggio dietro la testa, il numero 8, che sembra essere un po' il dominus, il capo di tutta la mafia Ostia. Non è così, cioè lo sappiamo bene che a Ostia ci stanno diversi clan mafiosi che si spartiscono il territorio, perché uno magari si becca l'usura, l'altro la prostituzione, l'altro ancora lo spaccio, l'altro altre cazzate, slot machine, insomma tutta quella roba su cui stabilimenti, bravissimo, chioschi, ecco appunto, ultimamente hanno cambizzato una Ostia perché c'aveva anche Osco, un altro pregiudicato, insomma lo sappiamo benissimo che a Ostia c'è una sorta di pax mafiosa. Quello che invece sostanzialmente il film in parte nega, perché lì c'è sto numero 8 che lui è il capo, se proprio sembra il boss mafioso vecchio stile, dice senza di me si muove nulla, invece la realtà è come al solito sempre molto più complessa di come ce la vogliono far vedere. Però ecco, noi ci volevamo andare ad ascoltare la società dei magnaccioni, che come dire è un modo un po' per sdrammatizzare la situazione. Eh sì, però è anche un modo, diciamo, popolare con cui il popolo all'epoca fotografò in certo sì. senso quella che era questa società. È pure la prova che insomma è sempre la stessa storia. Esatto, cioè andiamo ad ascoltare, o volete aggiungere qualcosa, non so, sulla situazione di Ostia, in generale di Roma, su quello che sta succedendo? Prima tu accennavi al giubileo, che sarà un'altra mangiata, sì, esatto, edilizia, fine. Dei preti. Magari se uno dilunga tutte queste discussioni pare di cascare nel banale, però alla fine è la verità. Quindi è una canzone per di bevemoci sopra e cerchiamo di pensare meglio, insomma. Ce andiamo ad ascoltare allora. Vuoi aggiungere qualcosa, Fefo? No, casomai dopo. Allora, rientriamo subito dopo la società dei magnaccioni. Se va un amore. Rieccoci allora, qua chiamano madri della gente che sta qua. Ciao Antonio. Salutiamo e no, vabbè, ricordiamo anche che vabbè, Radio Onda Rossa, diciamo, metti Radio Onda Rossa 87.9, però se vuoi ascoltare pure streaming, andate sul sito www.ondarossa.info e ci ascoltate forse anche meglio probabilmente dalla banda in FM più comodamente, non lo so, sul letto, dove pare. Ecco, e la società dei Magnaccioni, vino. Allora no, prima appunto affrontavamo questo argomento, no, di una città, di una periferia, insomma, comunque che è governata da tutta una serie di boss, la polizia, la politica, i fascisti, insomma, come in qualche maniera come si rapportano i pischelli di Ostia, quelli non politicizzati, che non è che devono chissà avere quali idee, però che semplicemente vogliono vivere un po' più liberi, vogliono vivere un po' più tranquilli, vogliono vivere pure la loro rabbia, no? La loro noia, come dicevate prima. Ecco, come si difendono, come si rapportano in questa, è una domanda un po' difficile, mi rendo conto. Però dovete raccontare poi tutto sommato quello che succede nel quotidiano. Innanzitutto penso che un problema molto importante sia il fatto che comunque... Ma l'importante è bere. Vabbè, quello sicuro, quello sempre, quello pure adesso. Però penso che una cosa importante da dire sia il fatto che comunque la realtà della mafia è presentissima. Però si continua ad avere un po' questo alone, come se non fosse presente in realtà. Cioè io vedo, almeno nel pensiero comune... Esatto, quando invece alla fine sarebbe... molto utile, vabbè, questa sembra una frase fatta, però invece tirarlo fuori un po', renderlo un po' più presente questo problema pure tra i ragazzi, tra le cose, perché alla fine sì, noi lo dimo, lo sappiamo, però non è sentita molte volte sta cosa. Poi vabbè, forse questa è una mia opinione, però io sento questo, quindi. E poi dico, i ragazzi come si affrontano i ragazzi in una situazione del genere? La vivono anche un po' passivamente, penso, questa cosa. Alla fine indifferenza, infatti è quello il problema. Indifferenza, ma guarda, parla, c'è il microfono davanti. Non essere cattivo. Avvicinati. Cioè, lo sai e non lo sai, alla fine, cioè, non ci pensi più che altro, cioè, pensi alla tua giornata e non pensi che dietro magari ci può essere qualcuno che comunque ci fa profitto e ci vive con questa cosa. Non so, cioè, se mi sono spiegato. Stanno mai dei conflitti, insomma, che vai a finire, comunque devi lasciare perdere, se no devi litigare, poi ci rimetti, insomma. Vabbè, ma certo, ma quello in qualsiasi situazione, quello pure la sera quando ci sta sempre, che ne so, il pensiero che magari trovi qualcuno che con cui non ci puoi ragionare, cioè stai a girare e trovi quella persona che magari in quel momento tipo i fasci, ma soprattutto loro, però che Ostia sono ben presenti, esatto. Ricordiamolo. Quindi tutto un capitolo sui rapporti appunto fra queste categorie che abbiamo prima enunciato, cioè la polizia, i fasci, la mafia, il boss, eccetera eccetera, dei quali potrebbero essere i legami, però non è questa, diciamo, l'ora e nemmeno, diciamo, la lucidità per affrontare un tema così. No, però ricordiamolo che i fasci comunque su Ostia al momento ci stanno investendo tanto, e quando parlo di fascisti parlo principalmente di Casa Pound. E ricordiamo anche che Ostia è sempre stato un laboratorio importantissimo per la destra romana, cioè ricordiamolo, c'è stata Base Autonoma, Avanguardia Nazionale, Movimento Politico Occidentale, tutte sigle dell'estrema destra eversiva che insomma hanno fatto male a tanti compagni, a tante compagne, in termini proprio di aggressioni, e Ostia in questo è stato un laboratorio. D'altronde poi a Ostia c'era pure la Banda della Magliana, quindi poi tutti gli incroci tra Banda della Magliana, terroristi infami di destra ci stavano, questo non lo possiamo negare, però mi rendo conto che magari sto diventando troppo pesante attaccar Pippo. Questo era solo per ricordare che a Ostia i fascisti ci stanno, spesso menano, spesso imbruttiscono, per fortuna non l'amano più, però non si sa mai. Quindi ecco, prima leggevo un vostro testo in cui si parlava dell'ame, però forse era solo accennato, tatuato. No, però là in realtà era solo un ecco, riferimento. Ecco, lame tatuate sulla tua pelle, sì, tempesta, tatuaggio. Tra l'altro abbiamo anche ascoltato. Sì, è un tatuaggio che c'è Andrea qua al battesimo. Non è Ostia lo stesso quadrante, allora aggiungerei pure la morte di Renato Biagetti, insomma. Sì, tra l'altro a pochi chilometri di distanza. Dillo, stavamo a Fiumicino, quindi ricordiamo anche Renato. E insomma sì, Renato spezza le lame come abbiamo detto spesso. Vabbè, il tatuaggio ce lo fai vedere dopo. E ci andiamo a ascoltare? Ma che ne so, stavamo a parlare di beve, di cose, della società che mangiano tutti, ma noi bevemo, famo sentire gente da bar, no? Gente da bar numero 11. E noi intanto qua se sparamo un'altra Peroni. Ecco a voi, olè. Gente da bar. Mi è molto colpito quel testo. Sui gradoni al balcone appoggiato. La Marroca, questi erano i Razza a Parte, molto amati da queste parti. Tra l'altro è uscito il loro ultimo CD, Brucia, che vi invitiamo magari no a comprare, perché stava di nei negozi di musica non ce vanno, però ecco, nei banchetti pure lì, autogestiti, autoproduzioni che girano. Noi spesso ce l'abbiamo, non quest'ultimo CD, ma ce l'abbiamo ancora nella nostra distro di CD, ce l'abbiamo i Razza a Parte, quindi quando volete passate qui, insomma, prendete anche un loro CD, grandissimi Razza a Parte. Questo è il CD Spettri, no, Tuscia Oi, quindi insomma un titolo, un manifesto, un programma. E per rimanere, diciamo, in tema un po' di goliardia, questa era in dialetto montefiasconese, quindi dall'Alta Tuscia. E vabbè, risalutiamo Erluca che ci scrive su WhatsApp, poteva venire qua, non è voluto venire. Vabbè, a microfoni spenti l'abbiamo insultato già abbastanza. Allora, qui mi apri i microfoni. Qui stiamo un po' andando verso la fine del nostro spazio. Io ho pensato un paio di cose, di ascoltarci il vostro Pirati per poi legarlo ai Barberi a Champagne con Pirata, quindi ecco, per chiudere un po' con un apoteosi del Pirata, il panegirico al Pirata, che è sempre una bella figura. Se volete aggiungere qualcosa sulla figura del Pirata, perché avete scritto una canzone che si chiama Pirati? Ma niente, alla fine il Pirata penso, cioè, se possa legare pure molto bene la canzone di Barbera, che alla fine parla, insomma, del vive ognuno come gli pare a lui, senza abbassare mai la testa, seguendo le proprie idee, insomma. Ma chi non vorrebbe essere in Pirata, più che altro? Soprattutto, no? La bottiglia di rum in mano. Giustamente Fefo mi faceva sogno da di ogni bambino, la bottiglia di rum in mano. Il biberon te lo danno apposta. La copertina, il retrocopertina dello split dei Clacson negli ultimi, è anche qui un omaggio ai Pirati. Il veliero. Esatto, il veliero, anche qui è sempre zero calcare la copertina. Sempre zero calcare, è vero. Non è tanto nel suo stile, però è lui, è Michele. Allora, ci andiamo ad ascoltare Pirati degli Atti Vandalici e poi a seguire Pirata invece dei Barbera e Champagne. Oh, vale. Per la rabbia che brucia nelle vene, vale non cambiare. Si poca negli studi di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 25 o'clock. Atti vandalici in studio con noi e con loro. Un pezzo della sottocultura giovanile di Ostia, si sarebbe detto un tempo. Cultura e vitalità dalla strada. E tutta la sequenza ci ha ispirato, perciò ad andare dall'altra parte dell'oceano. In quella che è la città più irlandese degli States. Dai, fai o muori, e dai, muovetevi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Giù in piazzetta radunati in questa città. La realtà dei giorni tuoi per metà, seguendo ogni bizzarra mania, marcando netti i confini di una grande utopia. Gli anni d'oro e il colle in Serie A, gli anni in gradinata là, gli anni delle immense compagnie, di donne a biliardino sempre in due, gli anni a muso duro, punk e skin, i 501 come jeans, gli anni dei colonna e gruppi noi, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui noi. Siamo qui noi. stesso slancio, quel fervore non ti lascerà. Ma ora qua sei solo ormai. Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti, lo sai. Nessuno indietro lo riporterà, neppure lui. Gli anni d'oro e colle in Serie A, gli anni in gradinata fissa urla, gli anni delle immense compagnie, i tonne e biliardino sempre in due, gli anni a muso duro, punk e skin, i 501 come jeans, gli anni di colonna e gruppi noi, gli anni del tranquillo siamo qui. Capolavoro, capolavoro questa, i nostri anni di placcaggio. Purtroppo ci scuserete il formato, purtroppo è da YouTube perché non abbiamo il CD fisicamente, speriamo di averlo prossimamente qui proprio in radio. E è un capolavoro, cioè rifare gli 883 in questo modo, solo loro, solo loro. Gli anni dei Colonna e dell'Oi, volete aggiungere qualcosa su sto verso? Vabbè, il fatto è che comunque, cioè, quando uno parla del passato ed è sempre qua la vena romantica, che alla fine è bella, insomma. Nostalgia canaglia. Esatto. Nostalgia, nostalgia. Famo la cover. Tanto ormai siamo in vena. Vabbè, io direi che qua, insomma, i minuti piano piano scorrono, è mezzanotte, quasi è mezza. E non lo so, magari chiudiamo con brano vostro, visto che ci siete. Arriviamo al commiato. Sì, purtroppo. Che non è, che non è praticamente il marito di mia sorella, il commiato. Mettiamo. Sì, ho questo. E nel frattempo che decidete, e noi intanto vi ringraziamo di essere passati qui in radio a presentare il vostro CD, è sempre un piacere. Speriamo anche di avervi in futuro. Noi vi auguriamo ovviamente il meglio. Cento e mille di questi giorni. Anzi, soprattutto vi aspettiamo anche per fare un concerto a sostegno della radio, magari con altri gruppi, in qualche spazio sociale. Quindi, ecco, in cui possiamo fare qualche soldino per questa radio, che, come vi ripetiamo ogni giorno costantemente a questi microfoni, non campa d'aria, ma appunto della sottoscrizione dei compagni di Roma, dei spazi sociali in questa città e non solo. Quindi, ecco, magari un giorno organizzare un concerto insieme a sostegno della radio è sempre bello, è sempre una bella esperienza e si sta bene insieme. Qualsiasi cosa. Voi chiudete con un brano che può essere un consiglio, può essere una possibilità, può essere una cosa che ti diverte e ti riempie le giornate. Potevo mettere lato sbagliato. Benissimo, sì. Bella traccia. Sì. Quindi, vabbè, ci salutiamo. Se salutiamo, ci salutiamo. Con la speranza che siano tutti dal lato sbagliato, perché alla fine il lato sbagliato è sempre quello che c'ha ragione. È il lato migliore. Anche perché nessuno te se incula vuol dire che sta andata dalla parte giusta. Sì. È molto più facile poi stare dalla parte giusta rispetto dal lato sbagliato, ma per l'arti è sbagliato, per te è giusta. Perché se per te è giusta e per gli altri è sbagliato. Eh sì, io so che sono solo anche quando sono solo. Che cazzo stiamo a dire? L'importante è che è sbagliato, non è giusto, è importante, è molto importante. È importante sentire sta canzone sempre dal lato sbagliato. Dai, allora. Ed è proprio il motivo questo qui che stiamo dal lato sbagliato. Dal 77 ci stiamo dal lato sbagliato qua. Sempre dal lato sbagliato, tutti gli anni, sempre. Dai, allora ancora grazie a Tivo Andalici, grazie a Fefo. Sì, poi come sempre. Dai, chiudiamo fra poco, dopo questa facciamo la chiusura salutando le cose, insomma, poi però diciamo, finiamo qui con gli Atti Vandalici e poi altri 5 minuti. Anche perché il disco l'abbiamo sentito quasi tutto, meno male. Mancheranno un paio di traccette. Poi, se volete, o li contattate sulla pagina Facebook Atti Vandalici, si trova subito. Sì, sì, a parte magari qualche, che ne so, qualche resumazione nelle tombe, perché se tu scrivi Atti Vandalici su YouTube escono queste cose. Ma qualche non lo so, qualche casa devastata, non lo so, però qualche articolo del Tempo che parla di qualcuno che ha fatto un graffito su un treno. Se è roba, comunque, insomma, se non è qua roba siamo noi, quindi sentite una mail, ce l'avete, dove qualcuno magari che ci sta ascoltando vi può scrivere per magari inviate un CD. Ma sempre sempre sulla pagina. Sulla pagina, pagina messaggi. Ce l'abbiamo però monta, saprei dire. Vabbè, attiva. Però ce l'abbiamo. Aprite Facebook. Pure su YouTube. In teoria rispondiamo. D'accordo, quindi rindirizziamo attivandalici su YouTube e su Facebook. Ovviamente su YouTube per Prozap. Per ascoltarli su YouTube ci sono quasi tutte carino. Le tracce. Allora, andiamo ancora con l'ultima degli atti vandalici. Ci sarà un fascista sulla faccia della terra, ci sarà un buon motivo per essere antifascista. Dai, dai, piano piano ce ne andiamo. Onda Rossa 89 87.9 della modulazione di frequenza 0649 1750. La mano sul cuore incontra i disegnetti di Zero Carcare. Venerdì 13, ore 21, nuovo Cinema Palazzo, Piazza dei Sanniti 9A. Serata maratona di fumetti, racconti, musica e video. E venerdì prossimo sarà anche l'occasione per quella che è un po' la data che aspettiamo tutto l'anno, aspettiamo noi tutti e tutti, aspettate pure voi, e cioè l'uscita di Scarceranda, no? Agenda quest'anno che cambia un po' di stile, mi sembra, no? Eppure più bella. Dopo tanti anni appunto di una Scarceranda che abbiamo fatto in maniera abbastanza simile, almeno nelle geometrie, ecco, in tutti questi anni sono cambiate anche le geometrie, benché appunto sia rimasta piccola, non vi diciamo nulla, ovviamente, perché è una sorpresa. Quaderno più Scarceranda, 12 euro, ma se ce ne lasciate 15, certo, da paura. Certo, la formula è sempre quella, un'agenda che acquistate, un'agenda va in carcere, per un detenuto o una detenuta, a vostra richiesta, se ce l'avete, se no a nostra scelta. Quindi appuntamento venerdì anche per questo. La voglia, potrete comprare la nostra Scarceranda. Sì, insomma così, spostare con questo, vogliamo appunto spostare, graffiare, grattare un mattoncino del carcere affinché appunto un giorno questo qui, queste mura crollino. La programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui. Riprenderà nella giornata di domani, a parte appunto le repliche della notte, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadini e relazionali del giovedì mattina, fra cui ricordiamo Rom a Roma. Alle 13 il giornale radio, alle 13.30 lo spazio comunicazioni, alle 14 la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Visionari, a seguire Tracce di Cinema. Ancora in avanti Attica Blues oltre al Black Music, alle 17 le Schiena del Sole, alle 18.30 Profondo Rosa, che ricomincia, eh. Stavolta c'è per davvero movimenti LGBTQI. Alle 19.30 il giornale radio, alle 20 lo spazio comunicazione, poi alle 20.15 Allegro con Fuoco, la trasmissione di musica classica Radio Onda Rossa, e poi quell'altra trasmissione che parla di autoproduzioni, di Utter Self Invasion. Alle 22 i cuginetti di Apostasia, e poi le repliche in automatico. Con questo e anche con l'uscita della Scarceranda, per dire che il saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la clandestinità, gli arresti domiciliari, la latitanza, gli obblighi di ferma, insomma tutti quelli che sono soggetti al pesante apparato repressivo di questo Stato di cose. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, credo in versione un po' differente, e poi in avanti abbiamo programmato già un altro po' di puntate in cui parleremo un po' di Africa. Penso un paio di puntate da qui. Bella a tutte e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo, però non abbiamo preparato la sigla. E quindi lasciamo gli Erode che ci hanno accompagnato fino ad ora. Bella a tutti e a tutti, a mercoledì prossimo. Dai. Radical minds.